Oltre ad essere portavoce del movimento, faccio parte pure di un'apposita commissione comunale che a titolo gratuito di tecnici e non si segue la vicenda della TAP fin dal 2013, il movimento un po' prima, però questa commissione è nata nel 2013 e segue tutto l'iter e tutto quello che succede. E in seno a questo lavoro molto tecnico abbiamo seguito anche la vicenda degli sforamenti sugli inquinanti nell'ambito del PMA, del piano di monitoraggio ambientale che TAP deve produrre. Essenzialmente è successo questo. A giugno scorso, proprio nell'ambito di questo PMA, del piano di monitoraggio ambientale che è obbligatorio per TAP, sono stati presentati delle analisi in merito all'acqua di falda della zona del punto d'approdo, cioè località San Basilio di San Foca. In pratica queste analisi avevano degli sforamenti abbastanza accentuati, ma non eccessivamente gravi, di arsenico, nichel e manganese. Niente di eccezionale. Comunque si è attivata la procedura che prevede la legge per il comma 2 dell'articolo 145 del testo unico dell'ambiente, si è praticamente attivata una conferenza dei servizi in provincia di Lecce per verificare la natura di questi superi. Durante questa conferenza dei servizi sono arrivati altre analisi molto molto più preoccupanti che riguardano soprattutto un cancerogeno sicuro che è il cromo esavalente, che è uno stadio di ossidazione del cromo, e lì sono sollevate molte preoccupazioni insieme a questa conferenza dei servizi, dove c'è ARPA, c'è la ASL, c'è la provincia con i suoi dirigenti dell'ambiente e via dicendo. Quindi in pratica non soddisfatti come tecnici per conto del comune di Melendugno di come stavano andando le cose e delle scuse, o vogliamo dire delle motivazioni di TAP per questi superi, si è deciso prima di fare un'ordinanza per vietare l'emungimento di acqua dai pozzi intorno all'area di cantiere incriminata e comunque chiedere il blocco di lavori con questa ordinanza finché non ci fosse stato un chiarimento serio su che cosa stava succedendo in quella zona. Il pericolo concreto era l'inquinamento delle falde acquifere, quindi questa ordinanza era anche di cautela. Assolutamente sì, va ricordato che il sindaco è la massima autorità sanitaria nel comune, quindi è il responsabile della sicurezza dei cittadini, quindi per tutelare se stesso da eventuali azioni legali e per tutelare la cittadinanza, questa ordinanza aveva come primo punto la tutela della salute, quindi è stato impedito l'emungimento dell'acqua nei pozzi e tutto intorno. Giusto per dare un quadro della situazione, in quel punto la falda è a 1,5 metri di profondità, se tu scavi a mano per 1,5 metri trovi l'acqua, e il pozzo di spinta, che è un manufatto di cemento che serve a costruire il microtunnel per modo di dire, è un tunnel di 3 metri di diametro e lungo 1540 metri. Questo pozzo di spinta è un manufatto in cemento di 14 metri per 14 metri, profondo altri 14 metri, che ha impiegato migliaia di tonnellate di cemento immerse nella falda acquifera. Tutta la zona intorno al pozzo di spinta, che sono 2,6 ettari, ora è un'enorme area di cantiere dove sono stati tolti gli ulivi, è stato sbancato il terreno, è stato depositato dello stabilizzato di cava, e le indagini di ARPA, in contraddittorio con quelle di TAP, sono, diciamo così, mirate a verificare che materiali sono stati utilizzati per provocare dei superamenti del genere in falda. Quello che noi adesso vediamo dalle documentazioni che abbiamo, da quello che leggiamo dai giornali, si capisce che probabilmente i risultati dati da TAP non corrispondono alle analisi fatte in contraddittorio da ARPA Puglia. Sempre dalla stampa si legge che però questo, come dire, è solo un filone di indagine di un'inchiesta che riguarda anche altre ipotesi di reato come truffa e violazioni urbanistiche. Quella è un'altra indagine e più incentrata in un'altra zona sul tracciato di TAP. In 8,2 chilometri di tracciato ci sono almeno tre indagini. un po' così, diciamo, questo progetto. L'inquinamento della falda è a San Basilio, il punto d'approdo, sempre parlando di San Foca. Fra San Foca e Melendugno, sul tracciato, c'è Masseria Le Paesane, dove c'è un sequestro in corso, in atto. C'è l'area sequestrata da aprile scorso, 27 di aprile scorso, per queste violazioni paesaggistiche, urbanistiche, alle prescrizioni e via dicendo. E sull'area dove deve venire la centrale di depressurizzazione, il terminale di depressurizzazione di TAP, che è un'area ampia 12 ettari, pende la spada di Damocle della soggettabilità alla normativa SEVE sul rischio incidenti rilevanti, che i governi che si sono susseguiti dal 2011 in poi, con degli escamotaggi abbastanza discutibili, hanno praticamente bypassato a favore di TAP.